Allora, di cosa stiamo parlando? Che oggi l'umanità è in un passaggio decisivo, il passare dalla ragione strumentale, che tra l'altro diventa ragione bellica, e siccome i miei scopi non corrispondono ai tuoi, capisci? Non siamo mica abituati a... Io con questa ragione mi metto a combattere con te. Che cos'è la contemplazione quindi? È praticamente i due occhi dell'anima, come dice Margherita Porrete, è l'intelletto pienamente dispiegato e il cuore. E guardate caso cosa produce, se entrate e frequentate quel pensiero lì, vi verranno delle intuizioni chiare e distinte sulla realtà. Avete pensato 200 anni a un problema, non trovate soluzione. Se state un attimo qua, si accende la luce. Certo, si va così. Capite che è un risparmio enorme? Proprio, visto che parliamo di economia, con la ragione strumentale per andare da là a qua ci vuole una fatica bestiale. Con quella, paf, ci sei subito. Ma attenzione che la maggioranza degli scopi che ci ponevamo qua non li abbiamo più dopo. Di bontà, non sono inutili. Perché quando stiamo in una relazione d'amore con tutto ciò che c'è, siamo già in pace, stiamo benissimo lì. Ecco, questo è il futuro che aspetta l'umanità. Tutto lì. Questo, per questi giovani avranno fatto una rivoluzione. E andare a scuola e dire, ma noi non vogliamo più una scuola così, scusate, ma insegnateci delle cose che hanno senso. E non inzoppare il nostro cervello di cose che cui poi ci dobbiamo disintossicare, no? Perché sono tossiche. Capisci? Perché ogni cosa che tu hai appreso con questo tipo di ragionamento ti lega. Poi tu entri a far parte di una lobby che usa queste cose per potere. Per poter rinunciare a questo devi rinunciare ai privilegi del potere, ma figurati. Ora, la maggioranza degli economisti di oggi sta nel mainstream dell'economia, che è una serie di balle che ci sta portando alla distruzione. Perché non lo dichiarano? Com'è possibile che Monti non capisca questo? Ve lo siete chiesto? Cos'è, il cretino? Pensate che sia totalmente disonesto? Né l'uno né l'altro. Lui ha dei privilegi, stando lì inconsci, sta in una casta, per cui quando esce di lì è riconosciuto da quelli a cui lui tiene, gli altri gli sorridono, lo abbracciano, gli vogliono bene, perché tra di loro... E quindi per lui è impensabile fare qualcosa di diverso, capite? Queste sono le cose che succedono. Quindi non è che le persone sono consce precisamente di quello che fanno. Di machiavellici che fanno le cose sapendo di fare disastro, sono pochissimi. La maggioranza non fa così, è semplicemente preda di un sistema che gli è entrato dentro. Questo è il compito dei giovani svegli di oggi.